99. Ravioli alla genovese. Questi veramente non si dovrebbero chiamare ravioli, perché i veri ravioli non si fanno di carne e non si involgono nella sfoglia. Mezzo petto di cappone o di pollastra, un cervello d'agnello con alcune animelle, un fegatino di pollo. Mettete queste cose al fuoco con un pezzetto di burro e quando cominciano a prender colore, tirateli a cottura col sugo di carne. Levatele asciutte e tritatele finissime con la lunetta, insieme con una fettina di prosciutto grasso e magro. Poi aggiungete pochi spinaci lessati e passati, parmigiano grattato, noce moscata e due rossi d'uovo. Mescolate e chiudeteli come i cappelletti all'uso di Romagna numero 7, o in modo più semplice, con questa dose ne farete 60 circa. Cuoceteli nel brodo per minestra o asciutti con cacio e burro, oppure col sugo.